Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Giorno 63. Con la calma di una vacanza al mare ci svegliamo a mezzogiorno. Capisco subito che è troppo tardi e alzando il naso mi rendo conto che la cappa di nuvole sopra la nostra testa è stabile a 2600 metri, esattamente stessa altezza del Colle del Trione, passo che dovremo valicare per arrivare a destinazione. Sono Elis Bonini, di Reggio Emilia, faccio il grafico, ho 25 anni e sono un appassionato di montagna. Attraverso le regioni pianeggianti, Annibale giunse alle pendici delle Alpi. In testa erano gli elefanti. I nemici, che non avevano mai visto quegli animali, non osavano avvicinarsi. Raggiunto il valico delle Alpi, Annibale ordinò una sosta. Leggendosi sulla faccia di ognuno lo scoramento e la disperazione, Annibale, spintosi innanzi e fatti fermare i soldati su un promontorio, donde la vista spaziava largamente, mostrò loro l'Italia e ai piedi delle Alpi la pianura padana, dicendo che essi superavano allora non solo le mura d'Italia, ma della stessa città di Roma, che tutto il resto sarebbe stato agevole e piano, che con una o al massimo due battaglie avrebbero avuto nelle loro mani la Rocca e la capitale d'Italia. Iniziamo oggi, in questo giorno di Natale, con un estratto da un testo storico scritto dal greco Polibio, e parliamo di un'epoca che non è così precisa, ma di cui tutti si ricordano. Parliamo del 218 avanti Cristo, quando Annibale attraversa con gli elefanti le Alpi. Buongiorno a tutti, questa è Voi Siete Qui. Oggi noi non siamo in diretta, è una puntata che è stata confezionata ad hoc per questa giornata particolare che è il giorno di Natale. Sono sempre le 16, quindi voi sarete probabilmente ancora seduti a pranzo e quindi probabilmente non state ascoltando la radio, vi scaricherete il podcast. Se invece siete probabilmente in automobile e andate verso una cena natalizia o avete appena finito un pranzo di Natale, siete molto fortunati perché avete un'ora di storie che parlano di viaggio. Oggi qui a Voi Siete Qui. Ogni giorno noi in questo programma facciamo questo, raccontiamo la storia di qualcuno che voglia di condividerla. Un episodio, una piccola storia accaduta realmente nella vita di quella persona, un inizio, uno sviluppo e una fine. Ne facciamo una storia, ne facciamo una puntata e ogni giorno una storia diversa, ogni giorno una puntata diversa. Voi siete qui, andate a cercarci sul sito di Radio 24 se avete un computer o uno smartphone tra le mani, cercate i podcast di questa trasmissione se volete saperne qualcosa di più. Oggi raccontiamo tre diverse storie, partiamo dalla prima. La prima è del motivo per cui vi ho letto questo pezzo di Polibio che parla di Annibale. La prima è tratta da una sorta di avventura che due ragazzi che volevano effettuare un viaggio a piedi hanno fatto proprio attraverso le Alpi. Loro non hanno solo valicato le Alpi come ha fatto Annibale, loro le hanno attraversate da ovest ad est. Si chiama Spedizione Annibale, se avete voglia di andare a cercare qualcosa, spedizioneannibale.com. Elis mi ha scritto una mail tempo fa dicendomi: noi abbiamo fatto questo viaggio. Io gli ho detto: mandami qualche storia, e lui mi ha mandato una mail, ecco qua, e non c'era l'allegato. Gli ho scritto: Elis, ci serve l'allegato, e alla fine me l'ha mandato. Quello che vi sentirete è il racconto di tre giornate diverse, sono il giorno 4 e il giorno 11, cioè poco dopo la partenza, e il giorno 63, praticamente verso la fine. Il viaggio durerà 75 giorni e queste sono le tappe della spedizione Annibale. Giorno 4. Le vesciche sanno di buono, il tempo promette bene e alle 6 siamo già in cammino. Armando ieri sera ci ha parlato di due fratelli che tutte le mattine alle 6 passano da Torreano e vanno su alla loro cava. Facciamo un pezzo di strada sperando di incrociarli e salire sul loro pick-up. Alla fine però niente. Prendiamo la carraia che ci riporta sul sentiero e tra piste poco battute, erba alta e tracce sbiadite arriviamo alla Madonnina del Dom, avamposto militare con monumento agli alpini e un rifugio chiuso. Da lì la salita al monte Ioannas si fa più semplice. Attraverso una carraia in mezzo ai prati la vista si apre a sud, rimbalzando su Cividale e Cormons, arriva fino al mare, a ovest. Si intravede Udine, a est il confine sloveno, a nord una cortina di roccia e in lontananza qualche spruzzata di neve sulle vette più alte. Raggiungiamo i primi 1000 metri della spedizione. Fatica e dolori per un attimo lasciano spazio a un sorriso soddisfatto. La spedizione Annibale è un viaggio attraverso le Alpi e che parte da Trieste e arriva a Genova, tutto a piedi, e abbiamo deciso di fare questo viaggio per metterci alla prova e per cercare di esplorare un mondo a noi vicino, però apparentemente molto, molto sconosciuto ai nostri occhi. E poi la rapida discesa spaccagambe ci porta verso Monte Fosca. Il paese è come tanti, lontano dal turismo. Durante l'anno si svuota, ma d'estate e sotto le feste qualcuno torna. Ci fermiamo per rifiatare e per pranzare. Abbiamo fatto 14 chilometri, camminato 6 ore e saliti quasi 900 metri di dislivello. Ma l'avvicinarsi delle nuvole e l'ospitalità ci consigliano ancora una volta di rimanere. Siamo sempre più stupiti e pieni di felicità. Quando puoi, ogni volta che puoi, fa del bene. Non si sa mai che questo un giorno ti possa ritornare, ci dicono. E allora rimaniamo ospiti della locanda La Milanese. C'è chi dal paese va per trovare lavoro e chi torna, stanco della città, per riaprire e dare un luogo dove chiacchierare e bere qualcosa. Si parla italiano, dialetto e sloveno, il confine è a un passo. Si beve un bicchiere. E questo è il social network di queste zone. Per strada, negli occhi e nei gesti. Piove, le vallate fumano e le nuvole che salgono si uniscono alle altre che scavalcano le vette più alte. Fa freddo. Anche stanotte siamo al coperto e ringraziamo questa dea bendata che in questi primi giorni ci coccola affettuosamente. Mangiamo a tavola col marito e la moglie che gestiscono la locanda. Si chiacchiera di tutto, si mangia e si beve accompagnati dalla bisboccia di quelli al bancone. Finiamo la serata chiacchierando con un signore sulla quarantina e il figlio, venuti per vedere la partita che quella sera è in TV. È un camminatore e conosce bene le montagne. Ci dà qualche consiglio e poi, stringendoci la mano prima di andare, ci dice: «Io in montagna ci vado per cercare pensieri responsabili. Spero che anche voi possiate trovarne». Circles they grow and they swallow people whole. Half their lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes. Don't come closer or I'll have to go. Holding me like gravity are places that pull. Never there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappeared. Late at night I hear the trees, they're singing with the dead overhead. Leave it to me as I find a way to be. Consider me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me, guarantee. Giorno 11. Svegliarsi in una nuvola può sembrare fantastico. Se lo raccontate ad un bambino vi guarderà con gli occhi meravigliati. Ma svegliarsi dentro a una nuvola a 1500 metri, con una decina di gradi e un freddo cane appiccicato alle ossa, non è così meraviglioso. Ore 7. In cammino. Saliamo al confine con l'Austria e la montagna è un groviera, finestre, caverne, feritoie, trincee, segni di una guerra che lascia resti indelebili in questi paesaggi e nella storia del Novecento. Qui hanno combattuto Italia e Austria per pochi, freddi, aguzzi e rocciosi metri. Ancora viene da chiedersi il perché. La montagna dovrebbe essere solo assaggiata, non combattuta. Tra trincee e vedette incontriamo marmotte, camosci, volpi, salamandre e rane. Ci ronza attorno il temporale, ogni tanto scarica qualche goccia, per il resto ci avvolge nelle sue fredde e umide nubi. Persi e ritrovati nei sentieri maltracciati, scendiamo tra i fischi delle marmotte e poi arriviamo al passo di Monte Croce Carnico. Appena intravediamo il tetto del ristoro, il cielo si chiude e scarica tutte le sue lacrime sopra di noi. Stanchi e incapaci di reagire. Ci tuffiamo mezzi zuppi nella locanda in cima al passo e mangiamo qualcosa di caldo. Purtroppo non possiamo fermarci oltre e capiamo che se vogliamo dormire al sicuro dobbiamo raggiungere il tetto del rifugio Marinelli a 3 ore dal passo. Siamo stanchi e acciaccati, ma l'idea di un tetto è più forte di ogni dolore. Saliamo prima respinti e poi accompagnati da un vento gelido che brina i peli scoperti delle braccia. Da fondovalle si vede il rifugio, ma è lontano come il sole. Sembra irraggiungibile. Ormai le gambe hanno preso una marcia autonoma e arrivano da sole con attaccato il resto del corpo. Ancora una volta, per un istante, evitiamo di subire tutta la vergogna del cielo. Il calore del rifugio, dei gestori e della cena ci rimettono in forza. Oggi siamo andati come camosci in fuga dai bracconieri e un piatto caldo e un letto comodo è il premio migliore. Non abbiamo mai pensato di mollare il viaggio, però ci sono stati molti momenti di sconforto che ci hanno portato anche a farci molte domande su noi stessi, su quello che stavamo facendo. Giorno 63. Con la calma di una vacanza al mare ci svegliamo a mezzogiorno, mangiamo e alle 2 partiamo. La valle che sale da Pialpetta è stretta, umida e bassa. Il caldo è soffocante e sudiamo tutto il sudabile. Capisco subito che è troppo tardi e alzando il naso mi rendo subito conto che la cappa di nuvole sopra la nostra testa è stabile a 2600 metri, esattamente l'altezza del Colle del Trione, passo che dovremo valicare per arrivare a destinazione. Saliamo tra ontani, larici e qualche abete. Non incontriamo anima viva. Solo rovine di qualche alpeggio abbandonato e lasciato alle intemperie. Arriviamo al primo alpeggio a quota 2000 e già la visibilità scarseggia, come anche i segni dei sentieri persi tra gli arbusti bassi. In lontananza arriva il suono di qualche campanaccio di vacca al pascolo brulicante tra i laghetti alpini, sparsi qua e là. Continuiamo a salire sempre più annebbiati. Verso le 19 raggiungiamo il passo dopo aver incrociato due stambecchi e un camoscio che cenavano nascosti dalle nuvole basse. Senza sosta scendiamo subito lungo il sentiero e la visibilità migliora, ma piano piano andiamo verso l'imbrunire. Raggiungiamo un alpeggio abitato da vacche, un malgaro e i suoi cani pastore. L'oscurità però aumenta e improvvisamente, all'ennesimo rudere di sasso, i segni scompaiono. Giriamo in tondo per circa mezz'ora ed è diventato buio. Siamo persi a più di 2000 metri in mezzo alle nuvole e al buio. Una certa ansia ci prende alla gola, non eravamo in pericolo perché non minacciava pioggia. Avevamo di che coprirci e di che mangiare, ma la tranquillità era ben lontana. Insomma, siamo persi, ma non del tutto demoralizzati. Girovagando con le pile frontali accese, scendiamo leggermente più a valle, lungo i prati scivolosi e scoscesi della valletta in cui ci troviamo. Scivoliamo più volte, l'erba è alta e bagnata, e non vediamo dove mettiamo i piedi. Ma iniziamo a sentire un ronzio, lontano, come quello di un motore. Consultiamo le carte che fino ad allora servivano a poco perché non abbastanza aggiornate. Scopriamo di essere non lontani da un alpeggio e forse quel ronzio arriva proprio da lì. Con l'energia di chi non vuole dormire alla ghiaccio a più di 2000 metri, scendiamo. E quel rumore che sembrava un motore in realtà è un compressore che attiva una mungitrice. E l'abbaiare dei cani, più che metterci in guardia, ci rincuora. C'è qualcuno. L'alpeggio è attivo. Incontriamo il malgaro incontrato 2 ore prima, qualche centinaio di metri più su. Gli chiediamo se gentilmente sa se c'è un bivacco vicino e di indicarci il sentiero giusto. Lui, senza troppe parole, ci fa cenno di seguirlo e col passo di un vero montanaro, scarico dal peso di zaini pesantissimi come i nostri, ci porta sul sentiero giusto. Siamo esausti, ma alle 22:30 finalmente troviamo il bivacco. Stanchi, infreddoliti e affamati, ma contenti. Tutto questo perché abbiamo deciso di partire nel pomeriggio, perché abbiamo deciso di dormire qualche ora in più. Tutto questo ci deve insegnare che non bisogna mai sottovalutare i dislivelli, le distanze, le quote e la montagna in genere. Da queste parti bisogna partire presto e arrivare presto. Naked on the toilet with a toothbrush in his mouth. when he suddenly acquired an overwhelming sense of doubt. Every single piece of baggage he'd been holding on his back was beginning to dig in, and his back began to crack. And when he finally broke up, he found that he'd been breaking down. Little body, little soul, little shrapnel on the ground. And so he started to examine, from the clumsy to the cute, from the fat, fat cat to the destitute, from the chat, fat cat to the mute. Oh, earthly pleasure, ring out from the rigors of this road. Earthly pleasure, ring out from the caverns of my soul. Then suddenly he found himself in 1822, and he was in another body, in a heavy sort of suit. He was surrounded, but he'd started making plans to make a run, when they called to him, "Son, cock your gun." And so he did as all the others had already done. He put his finger on the trigger and he got him some. And though he don't like to admit it, it was sensual and pure, and he changed that day, though he can't be sure if it's the sickness or the cure. Earthly pleasure, ring out from the rigors of this road. Earthly pleasure, ring out from the caverns of my soul. Se siete a casa davanti a un computer o avete uno smartphone in mano e avete voglia di vedere le facce di questi due folli che hanno attraversato le Alpi a piedi, andate sul nostro sito, il sito Tirati 24, alla nostra pagina, la pagina del programma che voi siete qui. Ci sono loro due, Elis ed Edoardo, che sono aggrappati ad una roccia che sembra un cono, ma proprio aggrappati, mani e piedi, hanno i pantaloni corti, uno in canottiera, entrambi hanno dei sandali, e su questa roccia, in mezzo a un bosco, c'è un'etichetta, una targa che dice: bocchetta di altare, Alpi, freccia destra, Appennini, freccia sinistra. Pronto, Elis? Sì, ciao Matteo. Ciao, come stai? Tutto a posto, tu? Io anch'io, tutto benone. Senti Elis, andiamo subito al cuore della questione. Innanzitutto, come stai, Edoardo? Ah, Edoardo sta benissimo. Ok. L'abbiamo fatto dopo il viaggio, ci si è ripresi. Il viaggio è stato quest'estate, giusto? È stato del 2013. Esatto. Siamo tornati il 2 settembre. Scusami, partiamo però dalla foto. Dove vi trovate esattamente? Questo spartiacque tra Alpi e Appennini si trova dove? Ah, esattamente, si trova a Bocchetta d'Altare, al colle di Cadibona. È praticamente sopra Savona. Ok. È, diciamo, il limite che divide le Alpi dagli Appennini. Quindi eravate praticamente arrivati, quasi. Sì, eravamo arrivati. Dacci qualche numero. Allora, innanzitutto, siete partiti da dove? Siete arrivati dove? Attraverso cosa? Allora, abbiamo attraversato tutte le Alpi, quindi tutto l'arco alpino, seguendo più o meno il confine italiano con la Slovenia, l'Austria, la Svizzera e la Francia. Okay. E siamo partiti da Trieste e siamo andati verso ovest, quindi verso Genova, e il punto d'arrivo è stato poi Genova, appunto. Quanti chilometri avete calcolato? Abbiamo calcolato tutto, abbiamo fatto 1110 chilometri effettivi di cammino, e ci abbiamo messo in tutto 75 giorni, di cui due di riposo. Solo due? Sì, solo due. E non è compreso quel giorno di cui ci hai raccontato, in cui partite alle 2 del pomeriggio, no? Quello lì non era giorno, semplicemente avete riposato un po' di più. No, per riposo noi intendiamo proprio che non ci muoviamo, cioè abbiamo riposato completamente. Ci sono stati dei giorni in cui ce la siamo presi con più calma, però effettivamente abbiamo camminato tutti i giorni. Quindi vi siete fatti 2 mesi e mezzo di cammino per le Alpi. Questo la spedizione Annibale l'avete chiamata, vero? Esatto, abbiamo chiamato spedizione Annibale così, in maniera simpatica. Anche se Annibale in realtà ha solo valicato le Alpi, non le ha camminate tutte. Sì, non le ha solo valicate, fatto un pezzo, ma ovviamente noi abbiamo fatto di più di Annibale. Senti, la domanda sorge spontanea. Innanzitutto, perché lo avete fatto? Ma il perché è fondamentalmente per metterci un po' alla prova e per cercare di vivere questa esperienza di cui noi avevamo sentito parlare da amici o abbiamo, cioè, capitato tra le mani alcuni libri che parlano di queste mitiche attraversate delle Alpi. E così, un po' per scherzo è nato l'idea e dopodiché è stata concretizzata, alla fine abbiamo deciso di farlo. E siete partiti a metà giugno e siete arrivati a settembre, sostanzialmente. Esatto, il 21 giugno siamo partiti, siamo arrivati il 2 settembre. Senti, adesso faccio la parte dell'ascoltatore di Radio 24 che ascolta una storia così, dice: sì sì, bella storia, però che mestiere fai? Che mestiere fai per poterti permettere 2 mesi e mezzo di vacanza? Allora, io faccio il grafico. Ho dovuto rinunciare ad alcuni progetti che potevano partire e durare durante l'estate, appunto per poter fare questa cosa. E il mio amico Edoardo invece al tempo si era appena laureato, quindi diciamo come regalo di laurea si era concesso la passeggiata. Esatto, concesso. Di dove siete voi due? Noi siamo tutti e due di Reggio Emilia. Quindi non è che siete dei montanari? No, sì e no, nel senso che comunque sugli Appennini noi ci andiamo spesso, diciamo che la montagna è la nostra passione anche se non viviamo nelle montagne. E le vostre fidanzate lasciate a casa da sola per 2 mesi e mezzo cosa hanno detto? Ah, non hanno detto niente, hanno dovuto sopportare un po' la nostra assenza, ma poi è andato tutto bene. Ma non avete mai dato degli appuntamenti a, che so, a qualche, adesso le fidanzate per dire, ma non so, un amico che vi raggiungeva quel rifugio, un altro che si faceva un pezzo sì, di strada? Sì, noi abbiamo, diciamo che la nostra filosofia del viaggio, visto che abbiamo come abbiamo potuto vedere su internet o comunque sui libri che avevamo, Tutte queste attraversate erano cose più che altro solitarie, cercare di vincere, cioè fare dei tempi. A noi interessava più che altro poter far partecipare più persone possibili a questa avventura. Persone che magari non potevano farlo, come abbiamo potuto fare noi, potevano partecipare appunto su internet, abbiamo messo il sito. E allo stesso tempo chiedevamo ai nostri amici di venirci a trovare per qualche giorno, ovviamente. Altre persone con lavori più stabili dei nostri non potevano venire per più di 3-4 giorni, noi ci siamo accontentati di quello, abbiamo comunque avuto molto piacere che partecipassero. Ecco. Se qualcuno volesse sapere qualcosa sulla spedizione Annibale, lo mandiamo online dove esattamente, Elis? Su www.spedizioneannibale.com. Avete in progetto altri viaggi? Allora, sì, sinceramente ancora non abbiamo iniziato a progettare nulla, ci sono molte idee, sicuramente questa avventura ci ha fatto salire la voglia di viaggio invece che togliersela, quindi abbiamo tanta voglia di continuare e fare altre cose simili, però ancora non ne abbiamo parlato. Ecco, intanto questa doveva essere il nostro rodaggio e lo abbiamo fatto alla grande, secondo me. Invece dimmi se c'è stato un giorno in cui proprio non ce la facevi più, e il giorno più difficile in cui anche la montagna ti sembrava insopportabile. Esatto. Allora, il giorno più difficile è stato appunto il secondo giorno di riposo, nel senso che quando siamo arrivati al confine tra la Valle d'Aosta e il Piemonte ci siamo guardati negli occhi e psicologicamente eravamo molto abbattuti, quindi abbiamo deciso di fare un giorno di riposo. Sì. Quindi diciamo che il giorno più duro probabilmente a livello psicologico, perché a livello fisico poi dopo un po' la fatica si sopporta e diciamo appiana un po' tutte le problematiche, magari le discussioni eccetera, quel giorno proprio abbiamo voluto prenderci la pausa e riposare. Ho capito. E quindi è stato un attimo, insomma, ripartire è stato un po' difficile. Io purtroppo devo salutarti, Elis, però stavo guardando anch'io al volo adesso sul vostro sito spedizioneannibale.com. Ci sono foto di tutti i giorni, c'è un bellissimo blog fotografico di fatto di tutti i giorni scattate durante il vostro cammino. E tra le varie cose c'è una cosa che noto, che avete sempre sulle stesse magliette. Le lavavate la sera ed erano pronte la mattina, questa è la lettura. Purtroppo avevamo solo 2 maglie a testa, quindi non potevamo fare le foto con altre maglie. Va bene, però avevate tanto sapone di Marsiglia dietro. Eh sì, il sapone di Marsiglia che andava bene sia per le maglie che per i nostri corpi. Elisio, ti ringrazio. Saluta Edoardo, ripeto, spedizioneannibale.com se volete saperne di più di questo viaggio di questi due ragazzi attraverso le Alpi in 75 giorni. Se ne fate un altro, ovviamente noi siamo qui, voi siete lì e fateci sapere. Va bene, grazie mille Matteo. Ciao, grazie a te Elis, buona giornata. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Chiudiamo questa prima parte di programma. Oggi che è il giorno di Natale, come vi dicevo prima, e ovviamente siamo registrati, non penserete che siamo in diretta, vero? Abbiamo una mezz'ora in più per chiacchierare e per raccontare storie. Quindi adesso chiudiamo la prima parte con la storia della spedizione Annibale e più tardi altre due storie, oggi addirittura tre. Se avete proprio, se vi piace questo programma, oggi siete fortunatissimi. Altre due storie, una che riguarda proprio il Natale, anzi passare un Natale particolare tra il 24 e il 25, e un'altra invece che parla di tutt'altro. Un po' di pubblicità, non c'è la borsa, giusto, perché è il 25 di dicembre, un po' di pubblicità e poi ancora voi siete qui. Voi siete qui. È ovviamente un giorno speciale oggi ed è una puntata speciale quella di Voi siete qui. Di solito chiudiamo alle 16.30, invece in questa giornata di festa andiamo avanti fino alle 17. Quindi non abbiamo una sola storia, come succede di solito, ne abbiamo ben tre. L'avete sentita quella di prima, quella raccontata da Elis, parlava appunto di un viaggio a piedi attraverso le Alpi, tutte le Alpi, fatto in 75 giorni. In questa puntata di Natale, in tutte queste puntate di feste in realtà, fino al 3 di gennaio, racconteremo storie di viaggio e quindi oggi faremo altrettanto e ne racconteremo tre diverse, ma completamente diverse. Quella che sto per raccontarvi, che è la storia di Cristina, parla di un aspetto che da un certo punto di vista è sempre una grande opportunità, soprattutto economica. Dall'altra può sembrare un piccolo fastidio. Parlo dei viaggi, soprattutto intercontinentali, e parliamo di aerei, fatti durante i giorni di festa. Ma per giorni di festa intendo proprio il Natale o il Capodanno. Non so se avete mai preso un aereo il 24 di dicembre, o la notte tra il 24 e il 25 di dicembre, o la notte, meglio ancora quasi, tra il 31 di dicembre e il 1 di gennaio. Io non l'ho mai fatto. Non l'ho mai fatto anche perché in realtà da ragazzino i miei genitori non erano persone che viaggiavano particolarmente, non si spingevano tanto più in là della casa in Valsesia che avevamo, e quindi non è mai stato previsto il fatto di viaggiare, e tantomeno di farlo in un giorno di festa, in cui insomma bisogna fare le cose che siamo abituati a fare, i pranzi, i cene, eccetera eccetera. La storia di Cristina parla invece esattamente di quella cosa lì, parla di due genitori che sono evidentemente non particolarmente interessati alle festività, che hanno voglia di andare dall'altra parte del mondo, nella fattispecie in Argentina, e dicono: ragazzi, volare il 24 di dicembre costa di meno, ci sono più voli, e allora facciamolo. Se avete voglia di visitare il nostro profilo Facebook e avete magari uno smartphone in mano in questo momento, andate su Voi siete qui Radio 24, lo stesso per il profilo Twitter, che è Voi siete qui R24. Noi ogni giorno raccontiamo storie, lo facciamo da settembre a giugno ininterrottamente, raccontiamo qualcosa tipo 210-215 storie all'anno. I racconti che arrivano li mettiamo da parte, li raccogliamo, li leggiamo con calma, scegliamo le storie e poi le mandiamo in onda. Se avete voglia di partecipare con una vostra storia, inviate il vostro racconto a Voi siete qui @radio24.it. Se avete voglia di sentire le puntate che sono passate, scaricatevi i podcast attraverso il sito o attraverso iTunes. Se avete voglia di sentire la storia di Cristina, state lì. Era la fine del 1976 e io avevo 4 anni, quasi 5, perché sono nata il 3 gennaio. Mio padre aveva iniziato a viaggiare in Argentina per lavoro e colse l'occasione delle vacanze natalizie per andarci con noi, la sua famiglia. A quei tempi arrivare fino a Buenos Aires era molto complicato. Si volava da Milano a Parigi, dove si faceva una sosta di 6 ore, da lì a Madrid per uno scalo notturno e poi a San Paolo, ultima tappa prima di arrivare finalmente in Argentina. Io e mio fratello, che aveva 10 anni, avremmo quindi dovuto affrontare questo po' di viaggio, un numero imprecisato di ore di volo, salviettine umidificate e vassoietti di cibo che sapeva di plastica. Ma i bambini a quei tempi erano abituati a seguire i ritmi degli adulti e sviluppavano in fretta l'arte della pazienza. Poi mia madre era una donna molto ben organizzata, che difficilmente si sarebbe spaventata per così poco, quindi decidemmo di partire. problema fu un altro. Mio padre, nella sua infinita saggezza, decise di farci volare nella notte tra il 24 e il 25 dicembre. Probabilmente fu una buona idea per trovare aerei più vuoti e prezzi più abbordabili, però era evidente che ciò avrebbe avuto un impatto sulla mia notte di Natale. Erano però altri tempi, appunto, i genitori non si facevano tante domande sulla psicologia infantile e i bambini, oltre che pazienti, erano anche molto resistenti. Partii con il mio corredo di pennarelli, bambole e perplessità. Fui buonissima per tutte quelle ore, ma ero tormentata da un dubbio. Come sarebbero arrivati fin lì i miei regali di Natale? Il bambin Gesù, forse con una slitta trascinata da renne, avrebbe affiancato l'aereo, spaccato il finestrino e sarebbe trionfalmente penetrato nel Boeing 747 di Aerolíneas Argentinas per portarmeli. Sì, il mio immaginario natalizio era un mix confuso di cristiano e nordico pagano con un pizzico di cartoni animati giapponesi, insomma, un disastro. E quel viaggio, certo, non stava aiutando a chiarirmi le idee. Trascorsi le ore notturne perfettamente sveglia, con gli occhi ben spalancati a scrutare oltre al finestrino, ma non arrivò nessuno a consegnarmi i regali. Quando poi atterrai in un paese assolato, privo di alberi decorati, neve, cappelli rossi con il pompon e di tutto l'ambaradan natalizio, i miei dubbi aumentarono. Probabilmente tanta sobrietà era dovuta anche alla dittatura che da poco aveva preso il potere, allora però ero solo una bambina e di quelle cose non sapevo nulla. Il colpo finale venne dall'incontro con i bambini argentini che con assoluta certezza affermavano che i regali li portano Los Reyes, i Re Magi, il 6 di gennaio. E lì capitolai. Rientrai in Italia un paio di settimane dopo. Avevo 5 anni, perfettamente consapevole dell'inganno degli adulti sulla faccenda del Natale e sadicamente pronta ad infrangere le illusioni infantili del primo coetaneo in cui sarei incappato. Ma mancava ancora un ingrediente per fare di me la persona poco romantica, concreta e terribilmente testarda che sono tuttora. Poco tempo dopo qualcuno, non ricordo più chi, mi rivelò che su Swissair le hostess, la notte di Natale, portavano doni ai bambini. Per me fu una rivelazione. Se non potevo avere bambin Gesù, Babbo Natale, neppure una misera decorazione o un cenone dignitoso, avevo diritto ai mirabolanti regali di Swissair. Cosa poi fossero questi regali non lo venni mai a sapere. Dubito che fossero molto meglio di quelli che, seppur con imperdonabile ritardo, continuavo a ricevere. Ma non era questo il punto. Noi dovevamo volare sui Swissair. Le hostess che mi avrebbero portato i doni improvvisamente mi sembravano l'unico degno surrogato delle illusioni infantili che avevo bruscamente abbandonato. Iniziai a fare il diavolo a quattro. Per l'anno successivo dovevamo a tutti i costi cambiare compagnia aerea. Ovviamente i miei genitori mi lasciarono chiacchierare senza prendermi minimamente in considerazione. E per molti anni ancora continuammo ad andare a Buenos Aires con Aerolíneas Argentinas. Ovviamente volando la notte di Natale. Ora di anni ne ho quasi 42 e in Argentina non ci vado più da un bel po'. Comunque da tempo esiste un comodo volo diretto per Buenos Aires. Meno male, anche perché i bambini non sono più pazienti e resistenti come un tempo. Intanto Swissair è fallita. Quando l'ho saputo mi sono chiesta persino se non sia stata quella scellerata politica dei regali natalizi a darle il colpo finale. Mio padre non c'è più e neppure mio fratello. Ed io, ogni 24 dicembre, quando mi imbacucco in strati di lana e piuma fino a sembrare una palla sbuffante e brontolona e sfido il maltempo per andare a qualche noiosissima cena di parenti, non posso fare a meno di ripensarci. Quanto era figo e anticonformista festeggiare tutti insieme il Natale lassù. I'll be home for Christmas. You can count on me. Please have snow and mistletoe and presents on the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas. Voi siete qui, chiocciolaradio24.it, se avete voglia di mandare una vostra storia e far parte di questa trasmissione. Oggi è il 25 di dicembre, forse non ve ne eravate accorti, è il giorno di Natale, anche se oggi in realtà per me non è il giorno di Natale, cioè lo è per voi che state ascoltando il me che sta trasmettendo alla radio, non lo è per me che sto registrando questa puntata esattamente il 17 di dicembre. Lo facciamo tutto con un certo anticipo. Probabilmente in questo momento sarò lì a fare la cosa che state facendo voi, sono in auto e forse sto ascoltando me stesso, ma preferisco non entrare in questo loop, altrimenti diventi pazzo, come quella roba che dicono che se guardi due specchi che sono messi uno di fronte all'altro ti vedi all'infinito e rischi di impazzire. O forse era una di quelle leggende metropolitane che dicevano da piccolo: se guardi due specchi uno di fronte all'altro e ti vedi all'infinito, impazzisci. Se invece ti ascolti il te stesso che parla il giorno di Natale, diventi semplicemente scemo. Questo programma appunto oggi è in onda in maniera straordinaria, anche in questa mezz'ora andremo avanti fino alle 5 a raccontare storie. Ne abbiamo già raccontate due e state lì perché la terza è molto particolare e la raccontiamo a breve. Voi siete qui, chiocciolaradio24.it, vi dicevo, per partecipare alla storia, per scaricare i podcast invece il sito di Radio 24 alla pagina di Voi siete qui o altrimenti iTunes. Adesso ci ascoltiamo il traffico, perché immagino che sia importante in questa giornata natalizia, e poi di nuovo Voi siete qui. Ancora storie, questo è quello che facciamo qui a Voi siete qui, ancora storie in questa mezz'ora in più che ci è stata regalata da questa giornata natalizia. La storia che sto per raccontarvi adesso è una storia che è completamente diversa dalla passeggiata sulle Alpi della spedizione Annibale di Elis ed Edoardo che abbiamo raccontato all'inizio, ed è completamente diversa da un viaggio notturno in una notte di Natale verso l'Argentina, in cui da bambina si scopre che Babbo Natale non esiste. Vi leggo la mail che mi ha mandato Antonio, brevissima, accompagnando il suo racconto. Dice così: ciao Matteo, ti invio un breve racconto scritto a seguito di una spedizione glacio-speleologica in Antartide, gennaio del 2000. Un cordiale saluto, Antonio. Io ho cercato qualcosa su Antonio e ho scoperto che Antonio è uno speleologo vero, e l'ultima notizia che lo riguarda parla di una orma di dinosauro individuata a 3000 metri d'altezza sul Monte Pelmo, sulle Dolomiti. Questa storia però, quella che sto per raccontarvi, la storia di Antonio, è molto più fredda, è molto più glaciale. Sto guardando, ho davanti a me una cartina, cioè poi Google Map banalmente, per capire dove si trova il luogo in cui si svolge questa storia. Siamo sull'isola di Re Giorgio, King George Island, che è, se voi avete presente l'America Latina, no? La fate tutta da nord verso sud, tutta giù, arrivate fino in Cile, Argentina, arrivate giù a Ushuaia praticamente. Di fianco ci sono le Falkland. Ecco, andate ancora più giù, attraversate quel pezzo di mare, arrivate in Antartide, e l'isoletta più a nord, non è proprio quella più a nord, ma diciamo una tra le più a nord dell'Antartide, è proprio l'isola di Re Giorgio. È un posto dove ci sono qualcosa tipo 30 gradi sotto zero, ovviamente, e Antonio è lì per cercare una cosa molto precisa. Lui ce lo spiega nel racconto, che sono i mulini, cioè sono, credo di aver capito, dei buchi nel ghiaccio dove scorrono questa sorta di fiumi d'acqua. Lui, insomma, cerca di spiegarlo e lo fa chiaramente meglio di me. Ma non parla nemmeno di questi mulini la storia. Parla di un viaggio fatto da lui e dal suo socio amico insieme a una bottiglia. Il vero protagonista di questa storia è una bottiglia di vino che è arrivata fino alla punta più estrema a sud del mondo e che a un certo punto viene stappata. Certo, non si può dire che sia stata un'operazione all'insegna della politica dei chilometri zero. Volendo, si poteva comprare dell'ottimo vino cileno, del Santa Rita o del Conchaitoro, che avevano riempito le nostre serate precedenti. Ora invece quella bottiglia riposa amorevolmente riposta tra morbidi maglioni, in tenda, ma è in viaggio da molti giorni. Quella bottiglia ha attraversato mezzo mondo, passato i controlli dei check-in, sobbalzato in camion su australi percorsi, atteso in minimaliste stanze d'ostello alla fine del mondo, volato in gelide carlinghe sopra oceani burrascosi, salito i pendii crepacciati del ghiacciaio Collins su un cingolato sovietico tra nuvole basse colore del latte. Avremmo potuto portare con noi una bottiglia comprata a Punta Arenas, dove nel duty free più meridionale della terra si trova davvero di tutto, ma non sarebbe stata la stessa cosa. Intanto avanziamo lenti, in fila contro un vento freddo e tagliente, affondando le punte dei ramponi nella scricchiolante superficie del ghiaccio. È già sera, ma qui la latitudine non te lo fa capire. A King George Island la luce è tersa e infinita, ti avvolge di un vuoto assoluto di straordinaria bellezza. Fin qui ci han portato, nelle Shetland australi, le nostre peregrinazioni tra i ghiacciai del mondo. Quei lenti fiumi d'acqua solida percorsi da acqua liquida in superficie e nel loro stesso cuore. Siamo anche qui alla ricerca dei mulini, quei pozzi che si aprono come bocche blu nel biancore dei ghiacciai, che fin dall'Ottocento hanno incuriosito e spaventato naturalisti e glaciologi per i gelidi fiumi rombanti che vi si inabissano. Perché si formino i mulini ci vuole l'acqua, e perché il ghiaccio fonda ci vuole un po' di tepore, almeno in qualche periodo dell'anno. Era una bella domanda. Li avremmo trovati, in Antartide, i mulini? Mentre avanzo verso il campo ripenso a lei che sta aspettando. Certo, se potesse parlare ne avrebbe da recriminare dopo tutto quello che le abbiamo fatto passare, ma forse alla fine capirebbe. Avanzo verso il campo sotto lo zaino pesante di corde e di chiodi, i baffi induriti dal fiato gelido. Le narici raccolgono l'odore intenso degli elefanti marini che occupano la costa sud, trasportato fin quassù dal vento polare. Penso ad altri più invitanti profumi, a quello familiare che mi aspetta. Sì, lei, quella bottiglia, certamente capirebbe. Se solo sapesse come abbiamo costellato le carte geografiche del mondo con nomi di vini e di jazzisti per segnare dove si trovano le grotte più effimere e più belle del nostro pianeta, vuoti blu in un mondo fluttuante. Le rosse calotte delle tende iniziano a stagliarsi nel candore dolce della sera australe. Non è la base antartica russa di Bellingshausen, né tantomeno quella super tecnologica, Frey, cilena, ma sono la nostra casa. Abbiamo rischiato di perderle pochi giorni fa, schiacciate e strappate dalla furia di un vento che ancora non conoscevamo. E fu una notte dentro una buca di ghiaccio scavata in fretta per fuggire da un freddo che non perdona. Posiamo gli zaini tra le tende e stiriamo la schiena ricurva nel tentativo di ricomporre gli spazi scomparsi tra le vertebre stanche. Ma il pensiero è già altrove, la fatica è lontana. Pasquale entra a carponi in tenda e ne esce con lei in mano, senza scossoni. La stappiamo, ma certo la temperatura non è quella ottimale, forse 30 gradi, forse più, sotto quella consigliata. Giovanni accende il fornello e fondiamo un po' di ghiaccio per accogliere la nostra compagna a bagnomaria. Aspettiamo con calma, l'attesa ora fa parte del gioco. In questo luogo lontano non vi sono bicchieri di cristallo dalla forma ampia e panciuta, e ad accogliere il profumato granato nettare sono le gavette metalliche appena intiepidite dalle mani callose. Non abbiamo granché da abbinare, né carni, né funghi o tartufi, ma i sacri testi dicono che è anche un vino da meditazione. E così è. Meditiamo in silenzio, sorseggiando piano quel vino, sperando che l'attimo fuggente duri a lungo. Sì, l'abbiamo trovato. Brunello, il primo mulino glaciale del sesto continente. Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can't see, every couple tries to stop. Rockin' around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will have a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly, rockin' around the Christmas tree, have a happy holiday. E finisce qui questa puntata natalizia, la puntata di Voi Siete Qui, in cui vi abbiamo raccontato tre storie invece che una. La stessa cosa accadrà però, correggetemi se sbaglio, domani sarà lo stesso. Domani saremo in diretta, non in diretta ovviamente, ma saremo in onda dalle 16 alle 17 con tre storie dedicate sempre al viaggio, e la stessa cosa accadrà il 1° di gennaio. Quindi in queste feste abbiamo questa sorta di regalo, abbiamo mezz'ora in più per continuare a raccontare storie, che è la cosa che facciamo tutti i giorni e che è la cosa che vi chiediamo di fare. Se avete voglia di condividere un pezzo della vostra storia, un pezzo della vostra vita, un episodio molto semplice, non deve essere per forza un viaggio in Antartide, non dovete aver fatto un viaggio dall'altra parte del mondo, potete semplicemente raccontarci quello che vi è successo ieri o l'altro ieri o quando eravate dei bambini. Un inizio, uno sviluppo o una fine, una storia, una pagina, massimo due, a Voi Siete Qui, @radio24.it. Ogni giorno noi cerchiamo di dare una prospettiva diversa sulla vita e lo facciamo raccontando le storie accadute a persone diverse. Continuiamo a farlo domani, continuiamo a farlo dopodomani, tutti i giorni fino al 3 di gennaio, una edizione speciale di Voi Siete Qui dedicata alle storie di viaggio. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata nel giorno di Natale. Vi auguro per l'ultima volta, anche per la prima in realtà che non l'ho ancora fatto, una buona fine di questa giornata natalizia. Grazie a Tiziano Bonini, grazie a Paolino Corleoni, grazie a Margherita Ina, grazie a tutti quelli che hanno raccontato la storia di oggi, che sono Elis, sono Cristina e Antonio, e anche loro sono dei punti rossi su una mappa. Ciao, mi chiamo Alessandro, abito a Nova Milanese, sono sposato con due figli. La storia di domani è la mia, racconta di una strana foto che mi fecero 35 anni fa a Lomé, capitale del Togo in Africa. Questa è la mia storia e io sono qui.